Ora 21, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e naturalmente www.ondarossa.info. Sta per iniziare prove tecniche di trasmissione, consueto appuntamento del mercoledì sera, in onda da ora sino alle 22.30 circa. Dopo il sottoscritto, leggermente più tardi ma andrà in onda, ci sarà 25 o'clock. Ricordo naturalmente l'urgenza del crowdfunding per quanto riguarda il radioabbonamento, una campagna che andrà avanti fino a settembre e alla quale si può aderire cliccando sul banner sul sito della radio stesso e scegliendo la modalità più confacente. Per chi volesse invece comunicare mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Saluto Tabula Rasa, Ugo Braida qui a Roma, Andri Vieni di Attualità Nera, Maia dalla Sardegna al pari di Nicola Locci di Stigmate, Alberto Barberto, che non mi ricordo da dove provenga, Eugen Vintras, Gin da Venezia. Isetual, That's Carlo from Boston di Violent Knox, Laura Spirit Crusher, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, appresso ci sarà un suo nuovo lavoro, Rosa La Vita, omonimo progetto, Francesco Cornello in quel di Bergamo. E poi Like a Week, Noise Cluster con Arianna Di Lombardo e Flavio Derbecante. Mariano Berlino. Ebbene, cominciamo con Pavor Nocturnus. È il terzo passaggio che spetta a Bosch, ispirato all'omonimo pittore Hieronymus Bosch. Sono 8 tracce e ogni traccia prende il nome di un lavoro dello stesso Bosch. Ci inoltriamo in cupissimi e cimiteriali climi dark ambient e ci ascoltiamo Il Giardino dell'Eden e Inferno Musicale. Lui era Pavor Nocturnus con questo Bosch. Ed era il terzo passaggio per questo interessante album uscito per la Toten Schwan, una label indipendente che stiamo tenendo un po' sotto osservazione da un po' di tempo. Ricrea e lo fa egregiamente proprio i climi e le visioni di Hieronymus Bosch, il buon Eugenio Mazza. E oggi ci siamo ascoltati Il Giardino dell'Eden, Inferno Musicale. La prima più ambient, decisamente lugubre, mentre la traccia finale, nell'Inferno Musicale, è a un tratto quasi martial. Buonasera Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Enrico Cirrato di Petrolio, che abbiamo scoperto a collaborare anche con Albero Barberto di MDMA, e magari presto ci ascolteremo anche la loro collaborazione. Enrico Ponzoni di Sokushu Buzzi Project, Vulnus Aileen, anche loro hanno un nuovo lavoro che spero di avere e di mandare al più presto, Il Medico della Peste, lo salutiamo. Di nuovo Nicola Locci. Buonasera anche a Daniele Ciullini, presto anche lui tornerà nelle nostre playlist con le sue ultime fatiche. Invece adesso andiamo da un misteriosissimo personaggio che alberga ormai nel mio cuore. Si chiama Eimito Kunst, del quale non sappiamo pressoché nulla. È un musicista, almeno mi hanno detto, che si cela sotto questo pseudonimo misteriosissimo, e ha stampato attraverso la Dissipazio etichetta di Nicola Quiricone questo suo esordio musicale che porta l'omonimo nome. Il suono che ci andremo ad ascoltare ci può riportare indietro alle memorie del krautrock, anche se qui il tutto è definito in maniera più visionaria e dissonante. Si parte proprio con l'omonima Eimito Kunst e poi ci sarà Mexican Lost in Beersheba. sottile follia che pervade questa sorta di kraut rock, chiamiamolo così, appartenente a Emito Kunst con l'album omonimo uscito all'inizio di quest'anno attraverso la Dissipazio, etichetta di Nicola Quiriconi. Suono trattato da Simon Ballestrazzi, vecchia conoscenza del campo elettronico industriale. Saluto Antichrist di Omicidio, realtà industrial fiorentina. Emito Kunst, voce, parti elettroniche, sintetizzatori, percussioni, cimbali, organo farfisa, pensate un po', ma anche basso, violino, rumori registrati dal campo, nastri magnetici e contatti del microfono, insomma un tuttofare questo tal Emito Kunst. Seguiremo dunque Emito Kunst anche in prospettiva e noi ce ne andiamo in Emilia Romagna, andiamo a salutare Elena Micheli al secolo Rosa alla vita, e di lei questa sera invece andiamo un po' a riprendere il suo esordio del 2020 dal nome Key, chiave, che la vedeva in collaborazione con Naresh Ran, anche lui una notorietà non indifferente per chi segue un certo tipo di scena. Quattro tracce per loro, scaricabili in free download dal profilo Bandcamp della stessa Rosa alla vita. Ci ascoltiamo il brano di apertura che porta il nome di Water. chiamava Water, questo brano di apertura di chi il lavoro dell'esordiente in quel momento, naturalmente, Rosa Lavita, che si avvalsa della fattiva collaborazione di Naresh Ran. E come dice la stessa Elena Micheli, tutto ciò è stata una sonorizzazione di una installazione artistica, e quindi oltre al lavoro al basso, molto molto interessante questo basso così suonato, c'era naturalmente la tessitura musicale di Naresh. Buonasera anche a Lucia Cagliazza in Arte Lupsi. Dunque, artista emergente, Rosa Lavita, che ovviamente continueremo a seguire con interesse, e manderemo naturalmente anche la prossima settimana un altro passaggio da questo Chi. Andiamo a Napoli, andiamo alla Nesple Sounds Group, naturalmente di Raffaele Pezzella. I più attenti sanno che di questi tempi sto mandando questa compilation riguardante la scena sperimentale peruviana, e per farle cose giuste citiamo per intero il titolo di questa opera, Peruvian Music Survey Anthology of Experimental Music from Peru. Presto avremo anche la scena cinese, quindi un Raffaele Pezzella autentico giramondo artistico in costante collaborazione con personaggi e musicisti provenienti da ogni lato terrestre. Nell'album c'è una traccia in più rispetto alla versione digitale ed è questo Norvask, o meglio l'artista si chiama Norvask e il brano si chiama Post 2. Ci ascolteremo poi Fiorella 16, misterioso questo nome, con Laura in sul Labirinto. E poi la cifra misteriosissima, che è il nome dell'ultimo gruppo, dell'ultimo progetto di questa compilation, ossia DMT5. Cominciamo dunque con Norvask. Thank you. dopo il simil post rock di Gerardo Norvask, eccola qua, Fiorella 16. Questa volta è andato un po' per conto suo, comunque è partita finalmente questa ultima traccia finale di MTH5. todos estos sonidos, todos estos instrumentos se tejen entre ellos, se responden a través de sus frecuencias sonoras, que eso es lo que a mí me motiva más que nada para poder seguir experimentando, que es a los diferentes estados emocionales que me pueden llevar a estos instrumentos. No tengo un libreto, no necesariamente toco como debería tocarse, ¿no? Sino que más bien salgo de los parámetros para poder extraer sonidos nuevos, traerlos al presente, quizá de alguna memoria muy muy dentro de mí, ¿no? Pues, la genética que tengo y pues, eso, los abuelos que tocaban esto, y es una forma, ¿no?, de regresar a ese origen de alguna forma, pero siempre cayendo en el presente, ¿no? Por eso es que me gusta también incluso poner un poco de ruidismo en estos momentos como que así que están etéreos, ¿no? Sea cual sea la reacción ante las frecuencias de los sonidos que emiten esos instrumentos. Siempre se dice de que si tú rechazas algo es porque hay algo que aprender de eso, ¿no? Tu cuerpo lo está rechazando. Entonces, de alguna forma, estos instrumentos y sus armonías y melodías y frecuencias nos despiertan un algo en nosotros que está ahí dormido. Y bueno, la experimentación me lleva a eso, a poder despertarme también. Ci ha tenuto per molte settimane compagnia questa antologia riguardante la scena sotterranea e sperimentale proveniente dal Perù. E questa sera tre momenti diversificati tra loro. Gerardo Norvask, che vengo anche a scoprire essere una medicina contro l'ipertensione. Fiorella 16, Laura en sul labirinto, una frizzantina casella elettronica di un minuto e mezzo messa su questo disco, e per finire anche questo DMTH5, dove si è potuto anche riscontrare un'iniezione anche di folklore peruviano che bene o male ogni tanto traspariva nelle selezioni degli artisti scelti da Raffaele Pezzella e anche Jorge Castro Ortega, che ha aiutato Pezzella probabilmente anche per ricercare il prezioso materiale. Si rimane nella etichetta di Pezzella e lo facciamo con questo duo proveniente da, o meglio, uno dall'Olanda e uno dal Belgio. Il duo si chiama GCNC e sono un duo musicale che si applica nell'arte dell'elettroacustica, e hanno fatto da poco questo album dal nome Deprecated, dove vengono anche usate biciclette e strumentazione molto particolare che viene percossa, usata e trattata dal vivo da questi due musicisti, che hanno anche due nomi ovviamente, ossia Sjoerd Leiten e Patrick Bossing. Ci ascoltiamo By Whips e What Makes Dogs e Bugtech. strutture fondamentalmente elettroacustiche riguardanti GNC&C con questo Deprecated, un lavoro che esce per la napoletana Nespless Sounds Group del buon Raffaele Pezzella, che è andato a pescare questi musicisti in quel dell'Olanda e del Belgio, musicisti che naturalmente oltre alla parte elettronica e una chitarra elettrica gigioneggiano con oggettistica varia, tra cui biciclette, ruote, onde radio, eccetera eccetera, nastri magnetici naturalmente. Non male dunque, By Whips One Makes Dogs e Backtech da questo Deprecated. 21:56, questa è Prove Tecniche di trasmissione anche per oggi 16 giugno del 2021. Saluto tutti quelli all'ascolto e di questo programma, tenendo conto poi la concorrenza, diciamo, calcistica. Mi fa piacere che siamo in tanti qui e che ci andremo anche a godere Mika Vainio nel suo ultimo live del 2000, stampato nel 2021 naturalmente, il live del 2017, perché purtroppo in quell'anno è morto Mika Vainio, registrato in Svizzera, a Ginevra. Il last live, ci ascoltiamo Movement Number 2. Questo è il secondo movimento estratto da Last Live di Mika Vainio, artista finlandese già militante, come tutti sapranno, nei Panasonic, ed è stata proprio dalla Finlandia, credo, la migliore espressione sonora venuta da laggiù. Veramente hanno dato e fatto soprattutto la storia questo progetto di Mika Vainio e Ilpo Väisänen, e a Mika Vainio si è anche dilettato in una interessante carriera solista fino purtroppo alla morte avvenuta nel 2017. Vi devo raccontare un breve aneddoto riguardante i Panasonic che ho visto a Roma un paio di volte. Insomma, vennero a suonare in un posto qui, e orario stranissimo, era la domenica e dovevano suonare alle ore 19, perché ci dissero dovevano andare, partire presto per proseguire la tournée a Milano. Quindi si presentano puntualmente alle ore 19 e inizia il buon Mika Vainio a proferire non si sa che cosa, una lingua sconosciuta, a urlare, a dimenarsi, a prendere le tastiere, i computer e buttarli per terra e calpestarli. Noi ci siamo guardati e chiaramente pensavamo che fosse, come dire, una performance particolarmente estrema. Il problema è che Ilpo Väisänen se lo guardava alquanto perplesso, al punto che sono venuti fuori due tipi del servizio d'ordine del posto e se lo sono portato letteralmente via. Abbiamo scoperto che era completamente fuori di testa. Concerto durato un quarto d'ora. Fortunatamente sono tornati e Mika Vainio in maniera più sobria successivamente. Li ho visti anche con addirittura i Suicide, una bellissima data, sempre qui a Roma. Da genio finlandese andiamo a un altro genio che invece è di origine greca, che si chiama Diamanda Galassi, ovviamente. Ci andiamo ad ascoltare questa sera, tra parentesi, Movement numero 2, ce ne siamo ascoltati soltanto la prima parte perché dura ben 20 minuti, e la seconda ce l'ascolteremo la prossima settimana. Invece questa sera la seconda parte di Fragunia Apotuaima ex sun fonos, misterioso titolo, estratto da Diamanda Galas, un quarto lavoro del 1984, e ci ascoltiamo gli ultimi 8 minuti finali di questa incredibile performance di Diamanda Galas. letteralmente invasata la nostra Diamanda Galas, da un album omonimo del 1984, uno dei momenti più alti, credo, della carriera di questa artista di origine greca. Una traccia incredibile di 17-18 minuti, dove c'è del noise, c'è della sperimentazione, c'è della dodecafonica, c'è Luigi Nono, Stockhausen, la lirica, e c'è soprattutto la sua voce dall'estensione incredibile. E quindi queste settimane ci ha tenuto compagnia nell'andare a analizzare la sua carriera iniziale. Un artista che andremo a riprendere nel tempo e a sentire poi il suo evolversi fino, non dico ai nostri giorni, ma quasi. Caligula 031 invece, una avventura di Marco De Plano, parallela a Vertam, e ricordiamo anche i suoi trascorsi neofolk con Foresta di Ferro. Foresta di Ferro, uno dei nomi più belli, devo dire, e che alludeva a una fabbrica occupata dove si produceva appunto del ferro, una vecchia industria siderurgica, insomma abbandonata e occupata. E da lì dunque Foresta di Ferro. Tornando invece a questi Caligula 031, ci andiamo ad ascoltare due brani da Land of Opportunity, ossia Welcome to Hatley, un gioco di parole tra Italy e hate, odio, Hatley, e l'ultima traccia dal nome Bambole Rotte. cose non funzionano. Ah, allora che c'entra? Tu c'è l'idea? Tu c'è l'idea? Tu c'è l'idea? Apposta, tu c'è l'idea quanto ci vuole niente di traffico di droga, niente di meno. Traffico di droga, niente di meno. Traffico di droga, niente di meno. Traffico di droga, niente di meno. Traffico di droga, niente di meno. Traffico di droga, niente di meno. Traffico di droga, niente. Terminava in questo modo Land of Opportunity, un titolo che tradisce una amara ironia, dato che tratta un tema che avrete capito perfettamente dai campionamenti immessi in questo album di Caligola 031 di Marco De Plano. 22:31, termina dunque qui prove tecniche di trasmissione. 90 minuti volati letteralmente via. E quindi non mi rimane che ringraziare tutti quelli all'ascolto fino ad ora, e per chi volesse, questa voce tornerà lunedì prossimo con Disorder alle ore 21:30. Dunque una buonanotte ovunque voi siate, e naturalmente un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Tra qualche minuto l'appuntamento con 25 o'clock.